Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La bicicletta è un oggetto quasi magico quando si è dei ragazzini. Quando si è piccoli, la bicicletta è il primo elemento di indipendenza, è il primo elemento di libertà. Poi la bicicletta diventa semplicemente e fortunatamente un mezzo di trasporto. Buongiorno a tutti, è il 23 di luglio del 2013, il programma E Voi Siete Qui, sempre Radio 24. Io sono Matteo Caccia, oggi raccontiamo due storie che hanno a che fare con la bicicletta e come stiamo cercando di fare in questo mese di luglio, lo facciamo in modo diverso, da due punti di vista diversi. La prima storia direi che è una sorta di best seller, se noi vendessimo le storie invece che raccontarle basta, perché viene da un autore di fatto che è una sorta di best seller. Massimo Nerriotti è una piccola star tra gli ascoltatori di questo programma, lo è diventato grazie al racconto dello scorso anno, della scorsa stagione, che si intitolava Scagnolari, ma tutti lo ricordano come tale, come la storia di questo suo compagno di classe un po' sfortunato a cui lui fa un piccolo scherzo che diventa una sorta di tragedia. Quest'anno ha partecipato, era proprio l'inizio del programma, era settembre, ha partecipato con un'altra storia, una storia che ha a che fare appunto con la bicicletta. Questa storia lui racconta di un suo piccolo difetto, che è quello di ingarellarsi sempre. Cioè, lui sostiene che ogni volta che ci sia una gara da fare, qualunque essa sia, poi lui descrive meglio, fa degli esempi più divertenti di quelli che potrei farvi io, qualsiasi gara lui debba fare, niente, lui deve per forza vincere. È una forma di agonismo che noi in redazione conosciamo molto bene per viverla in prima persona sulla pelle di Tiziano Bonini, ma anch'io non mi tiro indietro da questa piccola forma di malattia, di patologia, direi. Ecco, lui, questa sua patologia, che è quella dell'ingarellarsi costantemente, lo porta un giorno su una strada di campagna fuori Torino a ingarellarsi in una maniera piuttosto ridicola e a doverne poi pagare le conseguenze anche piuttosto a lungo. Il mio problema è che mi ingarello sempre, in qualsiasi situazione. Qualsiasi gara è buona, da quella tipica della gara di sputi, chi piscia più lontano, pizza più grande, qualsiasi, ogni occasione può diventare una gara. Se poi ho indosso un casco e sono seduto su una moto, è finita. L'altro problema è che ho già 50 anni. Parco regionale della Mandria, 2 marzo 2012, è mezzogiorno, sole, un bel giorno di primavera. Primo anniversario del calcio in culo preso da quella maledetta della mia ex alla fine della nostra seconda storia, anzi direi seconda repubblica, ma al diavolo pure lei. Entro con la bici dalla parte di Druento. Per allenarmi uso una mountain bike un po' datata, ma molto efficace. Ho in programma un giro da circa 20 km, fatto di saliscendi. Ecco, specialmente alcuni sali sembrano appena accennati, ma ti ammazzano. Attraverso il cancello, entro e giro a sinistra, direzione Villa Bizzarria. La stradina è un rettilineo di circa 3 km, in leggera salita. Sembra in piano, ma te ne accorgi perché al ritorno si va molto meglio. Sono ancora freddo, ho della musica nelle orecchie e cerco di non andare a tempo, altrimenti muoio in 10 minuti. Ingarellato vuol dire quando lì per lì si crea una sfida, che può essere in bici, in moto, a sputi di semi di anguria o qualsiasi cosa che sia, che comporti una competizione uno contro uno o con più persone, o uno spirito competitivo. Anche se so di perdere, mi ingarello lo stesso, perché il momento della sfida, del pronti via, è bellissimo, e se poi posso ingarellarmi anche in moto è ancora meglio. Dopo un chilometro vedo davanti a me due persone in bici. Sono un poco più lente di me, non ci faccio caso. La stradina è un lieve pendio e la sento come un bruciore subito sopra le ginocchia. Non sono per nulla allenato. Negli ultimi mesi invernali ho fatto niente. Passerà. Mi avvicino alle due bici. È una coppia. Lei dietro, lui davanti di una decina di metri. Hanno bici da corsa e vestono abbigliamento professionale. Guadagno terreno. Poco dopo, affianco lei. È bionda, una madama piemontese sui 65 anni. La supero tenendo il ritmo. Raggiungo lui, che ha una bici molto ganza. Intravedo del carbonio. Ha una quantità di pignoni posteriori che fa impressione. Il più piccolo ha 3 denti. Mi pare una bici mostruosa, anche se non ne capisco niente. Ma non mi faccio intimidire, lo affianco. Stiamo affiancati per una ventina di metri. Io ho già troppo male alle gambe, in condizioni normali andrei un po' più tranquillo. E improvvisamente sento un clac. Lui, sui 65 pure lui, cambia marcia e parte come un treno. Un'accelerazione imbarazzante. Chiaramente è dopato. Evito di ingarellarmi, è ovvio che quel maledetto pedala da una vita e per stargli dietro dovrei morire. Quello che non mi aspetto è che appena lui è partito, dietro di me sento un altro clac. E mi si affianca anche lei, la moglie, la carampana. Anche lei, 65 anni. Mi si affianca anche lei. Vuole lasciarmi dietro. Eh no, vacca boia. Tengo duro. Aumento il ritmo senza cambiare marcia. Non ho neanche idea di quale io stia usando. Forse il terz'ultimo pignone. Lei non molla. Io nemmeno. Sta maledetta ciampornia, la devo staccare. Mica posso mangiare la polvere di una che ha quasi l'età di mia madre. Ne va del mio orgoglio. Io aumento ancora e lei tiene duro. Allora aumento ancora e lei sparisce alle mie spalle, ma sento un rumore delle sue ruote sul ghiaino, appena dietro di me. La ciampornia cede un poco ma non molla, che adesso ti faccio vedere io. Le tiro una metaforica palettata di letame, cambio marcia e le faccio sentire il mio clac. La pedalata diventa più dura, più di quanto avrei immaginato, vacca boia. Resisto, ma aumentano le mie possibilità verso la morte. Guardo il cardiofrequenzimetro fissato al manubrio. 223 battiti al minuto, è a fondo scala. Delle due l'una, o non funziona oppure sono belle morto e sto pedalando per inerzia. Ho i muscoli sopra le ginocchia che bruciano come se fossero incendiati col cannello della fiamma ossidrica. Il rumore delle ruote della ciampornia è sempre lì, forse un poco più distante. Lui invece è sparito all'orizzonte. Mi sa che lui è uno di quelli del Giro d'Italia dei tempi d'oro. Forse è Binda o Gimondi e sta portando in giro la moglie sulle strade del Parco della Mandria, così, giusto per farle fare una sgambata. Beh sì, essere sempre ingarellato vuol dire che puoi vincere e prenderti anche delle batoste terrificanti, ma chi se ne frega, è bello essere ingarellato. Poi non è che sia il mio modo di vivere, però quando ho visto quei due signori lì mi sono ingarellato, non proprio, non c'è stato il minimo dubbio. In quel preciso momento, nelle cuffiette, parte il pezzo giusto e sbagliato allo stesso momento. A questo punto pedalare a tempo significa rischiare davvero la rottura dell'arco aortico. Me ne frego, è una questione di orgoglio puro. Davanti a me, a 300 metri, c'è il giro di boa del Villa della Bizzarria. Oltre non si può andare. Lui è già là che ci aspetta sotto lo striscione del Gran Premio della Montagna. Io sparo la smargiassata finale. Faccio sentire il mio ultimo clac. Cambio marcia. Ultima corona. È durissimo. Pare di pedalare nella polenta taragna, ma lo devo fare. Devo pedalare da seduto. Vietato alzarsi sui pedali, che sarebbe un evidente segno di fatica, anche se per me in questo momento equivale già a rigor mortis. La ciampornia deve rimanere indietro. Provo un dolore alle gambe mai sentito prima. Per un istante intravedo Padre Pio su un trattore che ara. Le gambe stantuffano come i pistoni di un Landini testa calda. Quando arrivo al traguardo, lui mi guarda con occhi di sfida. Io lo ignoro. Ho l'occhio di triglia, ma respiro col naso e fischietto il simpatico motivetto che mi suona nelle orecchie. Senza cambiare marcia faccio un giro nel piazzale e prendo la strada al contrario, come se mi stessi solo scaldando. Mentre rientro nella stradina arriva lei, vitrea, in apnea. Sta dilettante. Mentre ci incrociamo le ammollo pure una cameratesca scoppola proprio sul coppino e poi sento un rumore di ferramenta di qualcuno che cade a terra, urla di dolore, insulti vari. Vengo raggiunto di striscio da un paio di pietre, ma non mi riguarda, che ho da allenarmi, io. Signora, se non sei capace di pedalare devi stare a casa. Lascia che te lo dica uno che le sa certe cose. Ho proseguito il mio giro e non le ho più visti. Dopo 3 ore a casa mi pulsavano ancora le tempie. Ho scoperto di avere il volume delle cuffie troppo alto e i timpani facevano contatto con le tempie, appunto. prossima volta niente cuffie. Guadagnerò anche in aerodinamica. E se quei due li ritrovo sulla mia strada, saranno solo problemi loro. Gaute da Suta, madamin. Sono in camin carivu. Ai ai ai, Girardengo. Fly, you great champion. No one can catch you on your roll. Ai ai ai, Girardengo. You're way ahead of him now. No one can see Santa anymore. Ai ai ai, Girardengo. Fly, you great champion. No one can catch you on your roll. Ai ai ai, Girardengo. Watch out for Sante, he's not that far behind anymore. Qualche messaggio incoraggiante per Massimo, soprattutto al 349-238-6666, quello di Corrado da Latina, che scrive: io ho 68 anni e faccio ancora la stessa cosa. E poi qualcuno che non si firma dice: credo che ingarellarsi derivi dal motorino Garelli. Non lo so, ma detto così sembra probabile. La prima cosa che però vorrei chiedere a Massimo, oltre che salutarlo, è cosa vuol dire quest'ultima frase che ha scritto. Pronto, Massimo? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, tutto bene. Tutto ci bene. Risentiamo per la seconda volta dopo, appunto, dopo il racconto su Scagnolari. E prima di passare all'ingarellamento, è una cosa che mi chiedono, devo dire, un paio di volte. È arrivato un SMS anche poco tempo fa che diceva: ma che fine ha fatto Scagnolari? È ufficiale, non l'abbiamo più trovato, giusto? No, non l'abbiamo più trovato. Io l'ho cercato ancora un po', ho ancora raminato nell'internet. Ho trovato un altro che mi ha mandato una mail, ma mi ha risposto che non era lui. Niente, vabbè. O in galera oppure... O ingarellato, probabilmente. O ingarellato. Massimo, senti, ho corretto il tuo racconto in corsa, perché quando è arrivato dicevi il secondo problema è che ho 49 anni e mezzo, invece li hai compiuti questi 50. Sì, purtroppo no. Li ho compiuti da poco, ma... Senti, cosa vuol dire, e tra l'altro mi perdonerai, tu e tutti i torinesi doc, perché sai che i novaresi come me sono piemontesi un po' spuri, nel senso che non è proprio Piemonte vero, esatto. Quindi, gaute da suta madamin sun in camin carivu, cosa vuol dire? Vuol dire, gaute da suta vuol dire togliti da sotto, ma anche togliti di mezzo, che sto arrivando. Sun camin carivu, che sto arrivando. Sun camin carivu più o meno era chiaro, sono in cammino che sto arrivando. Sì. Tu figurati che gaute da suta credevo volesse dire guardati le spalle io. No, gaute da suta vuol dire togliti da sotto, cioè quando sta per succedere qualche cosa più terribile, gaute da suta, vai via. Ok. Potrebbe andarne nella tua vita. Massimo, siccome sappiamo, nel senso lo sappiamo perché ce l'hai raccontato soprattutto l'altra volta e poi per quelli presenti al live dello giugno scorso ti hanno visto dal vivo, sappiamo che hai una passione per le moto e infatti dici che il problema è quando ti ingarelli con le moto. E giustamente qualcuno ci scrive: ingarellarsi in moto non va bene se non sei in pista. Tu di solito dove ti capita di ingarellarti? Allora, lo devo confessare, io ho fatto anche delle gare di qualità, però poi l'ingarellamento al semaforo scatta automatico e si fa solo se si può fare, cioè se la strada davanti è libera, se non ci sono eventuali pericoli, ma l'ingarellamento sulle prime tre marce purtroppo ogni tanto scatta e non ci si guarda neanche in faccia. Cioè, beh, certo, ovviamente. Si arriva alla... I migliori sono gli scooter, quelli degli scooter non sono capaci. Però vogliono andare l'altro. Cosa vuol dire quelli con gli scooter non sono capaci? Non c'hanno marce per quello. Quelli che con gli scooter non sono motociclisti. Però scusami. Infatti, se posso aggiungere una cosa. Ti prego. Perché me l'hanno parlato un po' di tempo fa. C'è un detto che dice che definirsi motociclista guidando uno scooter è come definirsi subacqueo facendosi il bidet. Più o meno il rapporto è questo. Senti Massimo, ti ringrazio per la metafora. Però te lo dice uno che ha avuto una moto per qualche periodo di tempo. In realtà poi il problema è che tu parti al semaforo, ma quello dopo ti vedi arrivare tutti gli altri, no? Quelli che avevi staccato. Quindi insomma, sì. E poi, tanto vale. Se non è una cosa che può creare pericoli, ok, ci si rifà per la seconda manche. Cioè per il secondo semaforo? Cioè quindi a ogni semaforo è così, prima, seconda, terza, prima, seconda, terza, va bene. Sì, okay. Prima, seconda, terza a fuoco. Senti, qualcuno mi chiede cosa vuol dire giustamente ciampornia. Ciampornia è un termine torinese piemontese, ma più torinese. La ciampornia è la signora di età avanzata, il ciampornione, da Torino si sa bene cosa vuol. Ascolta Massimo, no, Massimo, non è che se uno ti chiede un termine e tu dai il diminutivo o il contrario, è chiaro, no? Cioè il ciampornino, il ciampornione, non è che spieghi cosa vuol dire ciampone. Diciamo è una, sì, signora, è una signora, è una signora, magari, sai quelle belle signore molto ben ingioiellate, magari, però anche un po' noiosote. Quindi scusami, non ha a che fare solo con le, non ha a che fare solo con l'età, ha a che fare con, diciamo, una anche, categoria, sì, anche sociale, un po', proprio. Sì, un po' la categoria sociale, la signora un po' benestante ma un po' rompibale e noiosa, però molto ingioiellata, molto vestita, è una ciampornia, insomma, una, senza, poi diventa anche il ciampornione, ma non è così insultante. Ma non è offensivo, certo. No, no, non è offensivo. Non credo siano tra le ascoltatrici di Radio 24 le ciampornie, così a naso, non so perché. Senti, Massimo, un'altra cosa che mi diverte sempre nelle volte in cui ti ho incontrato, poi era al Salone del Libro e al Live qui a Milano, è chiederti del tuo lavoro, perché io, uno che fa il dentista per cavalli, non è che lo incontro tutti i giorni per strada. Oggi che abbiamo visitato, oggi, ieri? Oggi, ma tra stamattina e ieri ho visitato circa 25 cavalli da corsa, puro sangue da corsa in Toscana. Che hanno problemi ai denti? Sì, erano tutti cavalli di 2 anni e 3 anni e ovviamente nessuno ancora gli aveva messo le mani in bocca e ne avevano bisogno, perché molti stavano cambiando i denti da latte, per cui alcuni li ho tolti io, alcuni no, li ho lasciati. Perché a mano glieli togli i denti da latte? No, sì, con delle pinze fatte apposta. E come gliela tieni aperta la bocca? Con un attrezzo che si chiama apribocca, una sorta di, come uno speculo praticamente, che loro tengono la bocca aperta grazie a questo attrezzo, ma a volte lavoro con le mani libere dentro. Ma dentro, scusami, e poi ti saluto che c'è la borsa impellente, ma è pericoloso? Ti hanno mai, cioè, mordono i cavalli, no? No, beh bisogna, sì, mordono, possono anche darti delle rampate, dei calci, però dipende moltissimo dalla forza che hai con i cavalli, insomma. Ah, ok, cioè deve essere tranquillo. Devi essere un cavallo, se sei, allora parli la stessa lingua, se non sei cavallo non c'è verso. Ok, è la logica di quello che fa il programma per cani con l'americano, che dice devi essere il capobranco, sì, più o meno. Sì, infatti è la stessa cosa, mi fa più o meno la stessa cosa. Massimo, senti, ti ringrazio moltissimo ancora per la storia, sono arrivati altri messaggi di complimenti di gente che ride, uno ha scritto sul primo clac ho iniziato a ridere. Ciao Massimo, grazie ancora. Ciao, grazie, in bocca al lupo. You don't believe that I love you, and even if ever that was true, why, just to keep our unhappy home, I'm gonna try to pretend that I do. Voi siete qui. Se faceva molto ridere la storia di Massimo Nerriotti con lui che si ingarella con i due signori anziani, insomma, i due signori sessantenni sul ghiaino, eccetera, eccetera, non fa ridere, ma è molto, molto emozionante ed è molto particolare la storia di Gianluca, che racconta di come lui abbia deciso di andare sempre in bicicletta, al lavoro o dovunque deve andare, oltre che per la comodità, forse per un'idea di ecologia anche, ma soprattutto lo fa per non dimenticare suo nonno. La storia di suo nonno è strettamente legata a una bicicletta e comincia un giorno per caso. Immaginate, non accadrà mai, perlomeno in Italia, me lo auguro, non accadrà mai più una roba del genere, però immaginate di uscire di casa per andare a fare una commissione con la vostra bicicletta, di essere fermato da due tutori dell'ordine, dai carabinieri in questo caso, di essere presi senza nemmeno ripassare da casa ed essere spediti al fronte. Primavera del 1931, nella zona del Polesine, dove i confini tra le province di Verona, Padova e Rovigo si confondono, un giovane adolescente con le idee da adolescente sta pedalando lungo l'Adige, su una strada bianca, nell'afa umida della pianura. C'era il problema del cibo all'epoca, ma mio nonno pedalava per andare a suonare uno strumento. A lui piaceva il violino e per trovarne uno e fare delle prove doveva pedalare chilometri ogni giorno. Quel giorno però lo fermarono due carabinieri che gli chiesero dove fosse il bollo. Sì, all'epoca si pagava il bollo per la bicicletta. La famiglia di mio nonno non aveva i soldi per mangiare, figuriamoci se aveva i soldi per il bollo della bicicletta. Quindi mio nonno dovette seguire i carabinieri in caserma per gli accertamenti del caso e per scontare 3 giorni di reclusione a pane e acqua. Tutti i parenti di mio nonno sono un po' stati sparpagliati alla fine della guerra, alcuni si sono dovuti trasferire all'estero, alcuni sono andati nel Lazio, per cui quelli rimasti lì sono veramente pochi o sono sepolti. Ecco che durante gli accertamenti si scopre che mio nonno ha 17 anni. A quell'età avrebbe dovuto essere già sotto le armi. Gli diedero del renitente alla leva e del disertore. Lui però spiegò che la cartolina non gli era mai arrivata. Non era un pacifista attivo, semplicemente aveva in casa 2 zii, reduce della prima guerra mondiale, uno senza occhio e l'altro senza gamba. Essere renitenti alla leva era un reato molto grave e mio nonno questo lo sapeva. Allora cercò in tutti i modi di evitare l'accusa, anche esclamando che lui lo voleva fare di corsa al militare, non vedeva l'ora di arruolarsi. Oltre a vedersi sequestrata la bicicletta, venne subito portato a Mantova per le visite mediche. Senza nemmeno salutare la famiglia, fu arruolato nell'11° reggimento artiglieri Messina, lui che sapeva a malapena cosa c'era a 20 km da casa sua. Si armò di buon senso però e cercò di non fare sciocchezze. Eppure venne imbarcato subito per Mogadiscio. Mio nonno si confrontò con persone dal colore della pelle e da usi e consuetudini che non aveva mai visto e che erano completamente differenti dai suoi. Beh, diciamo che c'ho molte foto che si è fatto scattare durante la guerra con queste bellezze africane abbastanza svestite e quindi c'è una raccolta fotografica molto, molto densa. Non era sgradevole conoscere un mondo nuovo, fino a che non c'era da battagliare. Ma più si avvicinava al fronte e maggiori erano i segnali della guerra vera. Mezzi distrutti e abbandonati lungo le strade. Sandali di cuoio e stivali in mezzo ai cespugli. Il resto se lo portava via la notte. Harar e Giga si avvicinavano. Lì c'era il fronte. Il primo giorno al campo, dopo 3 settimane di viaggio, fu messo di guardia di notte. Era normale sentire i versi dei leoni e delle iene che si affrettavano a ripulire i terreni di battaglia. Le guerre sono tutte dolorose e piene di sofferenze, ognuna le sue. Ciò in cui si differenziano probabilmente è l'umanità che si riesce ad avere tra un cannoneggiamento e un assalto alla baionetta. Le abbuffate di marmellata quando arrivavano i rifornimenti, le uscite dal campo per fraternizzare con la gente del luogo, i bagni alle sorgenti vicine. Mio nonno fu fortunato e sopravvisse. Al ritorno a casa in Italia però la famiglia era spezzata e non era rimasto nessuno al paese. La guerra se l'era portato via. Che fare allora? Prendere nuovamente la bicicletta e andarsene, stavolta per sempre. Castagnaro Bolzano, 280 km, pedalando senza guardarsi indietro e senza rimpianti. Il lavoro da reduce di guerra lo aspettava in una fabbrica. È una nuova vita, di cui faccio parte anch'io. Che adesso tengo sempre una sua foto con me, per ricordarmi che per quanto difficile possa sembrare una situazione, c'è sempre un modo per uscirne. Ed è per questo che ogni giorno, che ci sia sole, neve, vento, freddo, caldo o pioggia, io vado in bici, per non dimenticarlo mai. Take the person, by the person, jump stand with a smile. No, noi davvero non ci rendiamo conto di quanto comoda sia la nostra vita. Però è anche vero che da quando è uscito non ci resta che piangere il film di Troisi e Benigni. Nessuno può far finta di non sapere. Nel Rinascimento, ad esempio, non c'era l'inquinamento, ma nemmeno la lampadina, le fognature o la radio. E quando volevi andare, che so, in America, ad esempio, dovevi prendere una nave e partire e sperare che esistesse davvero l'America. Quindi facciamo bene a lamentarci della malasanità o della carne di cavallo nei salti in padella, nei 4 salti in padella. Basta però che sappiamo che i nostri nonni, ad esempio, la carne, quando gli capitava di mangiarla, vuol dire che era una festa, tipo Pasqua o Natale. E che l'aspettativa di vita, mica tanto tempo fa, diciamo nei primi del Novecento, era di 45 anni. Quindi, per capirci, che so, una persona tipo Stefano D'Andrea, l'amico che scrive con me il programma, per dirne uno a caso, da adesso in poi ogni giorno sarebbe stato guadagnato per lui. Oggi invece l'aspettativa di vita è quasi il doppio, circa 82 anni, che vuol dire che in un secolo ci sono stati regalati la pressione alta e le malattie cardiovascolari, è vero, ma anche 40 anni di vita a testa, che non mi pare pochissimo. E ascoltando il racconto di Gianluca mi è venuta una gran tenerezza pensando al suo gesto quotidiano che gli serve per ricordare che se c'è una difficoltà è giusto provare a superarla invece che lamentarsi. Alle volte mi rendo conto della mia fortuna. Oggi mi sono visto in una situazione tipo quella raccontata da Gianluca. Fate caso, non in mezzo al Polesine in bicicletta, ma a Milano in Vespa. Una situazione quotidiana per me. Non ho il bollo, ma solo perché io me ne dimentico e non perché non ho i soldi per comprarlo o per pagarlo. Mi fermano i carabinieri, come il nonno di Gianluca. Proprio mentre sto andando a pranzo da un amico che ha un ristorante che mi ha invitato, ok? Mi fermano, mi fanno una multa. Me la fanno perché non ho il bollo. E io penso che non è giusto, che sto buttando via un sacco di tempo per niente, che tra poco dovrò essere in radio e quindi facevo prima non uscire nemmeno di casa. E poi c'è la multa, che sono 120 euro e la devo pagare. E quindi addio quel maglione che avevo visto ieri in saldo in un negozio vicino a casa. Niente, ormai non posso. Ah, e poi mi tocca andare all'ACI e faccio un'ora di coda. E ci devo andare in autobus perché la moto è ferma in mezzo alla strada. E tra l'altro devo anche trovare un'edicola dove comprare un biglietto per l'autobus. E giù altre mezz'ore che se ne vanno e altre imprecazioni che partono. Tutto sangue amaro. E alla fine della giornata sono nel mio letto nervoso come una bestia e mi giro e mi rigiro per tutto il tempo. Per tutto il tempo che ho buttato via e per i soldi che ho buttato via e per la sfortuna che mi è arrivata. E maledizione quei carabinieri che mi hanno fermato. Qualche decina d'anni fa il nonno di Gianluca l'hanno fermato per lo stesso motivo. E non gli hanno fatto perdere un maglioncino un pomeriggio. L'hanno mandato al fronte, ad ammazzare e a rischiare di morire. E allora sì, sarà banale questa frase, ma è vero. Noi non ci rendiamo conto di quanto comoda sia la nostra vita. First with your hands, then with your mouth. A downpour of sweat, damn cotton clouds. I was a fool, you were my friend. We made it happen. You took off your clothes, left on the light. You stood there so brave, you used to be shy. Each feature improved, each movement refined. And eyes like a showroom. Voi siete qui. È in bicicletta, ovviamente, Gianluca, nella foto che ci ha mandato e che se avete voglia di vedere, oltre che di sentire raccontata, la trovate sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, Voi siete qui. È estate, a giudicare dalla luce e dalle piante piene di foglie, è una strada di montagna, però. C'è una curva dietro la quale si vede una falegnameria, credo sia una falegnameria, perché sapete quelle costruzioni tutte in legno con delle vetrate che non so perché ma mi ricordano una falegnameria, sono quasi convinto che sia una falegnameria. Lui è con una mountain bike, con la tenuta da ciclista, è sorridente, è di spalle ma è girato verso l'obiettivo ed è fierissimo di tenere la mano appoggiata su un cartello che indica la pendenza della strada e dice 24%. Comodità. Sostantivo femminile. La presenza di uno o più elementi che favoriscono o facilitano in maniera apprezzabile lo svolgimento di un'azione, ovvero la permanenza in una data condizione o situazione. Concreto, conforto. Etimo, dal latino, commoditas commoditatis, derivato di commodus, comodo. Data, secolo XV. Il latino e io, tutt'uno ormai. Allora, bisogna fare un paio di errate corrige, ma nemmeno in realtà, bisogna semplicemente spiegare due cose perché ci sono giustamente degli ascoltatori all'ascolto che sono molto molto precisi e ci tengono che le cose siano dette correttamente. La prima è che il bollo sulla Vespa non è necessario, probabilmente intendevo l'assicurazione. No, io intendevo proprio il bollo per cercare di fare un paragone tra la mia storia e quella del nonno di Gianluca, ma evidentemente non ha funzionato, quindi va bene così, facciamo che era l'assicurazione. La seconda cosa invece, dal momento che al centralino a Rosa e a Nicole sono arrivate quattro telefonate di gente che non è mai esistito il bollo sulla bicicletta, allora, visto che l'abbiamo annunciato prima della borsa, Margherita Ina mi ha mandato questo link che dice nel maggio del 1895 un progetto di legge autorizzava i comuni quindi era una tassa comunale, a imporre tasse sui velocipedi. Gran parte delle amministrazioni comunali sono di parere favorevole di tassare le biciclette. Evidente il contenuto della relazione che accompagna il disegno di legge, bla bla bla, no? Perché anche qui diceva: non ho mai sentito, Franco mi scrive, non ho mai sentito che si pagasse il bollo per la bici. Ho 76 anni, mio papà ha fatto la prima guerra mondiale, me l'avrebbe detto, come si può essere certi? Guarda Franco, te lo spiego, era una tassa comunale, quindi non tutti i comuni aderivano, quindi probabilmente il comune in cui stava tuo padre no. C'è addirittura la legge 22 luglio 1897, Umberto I, per grazia di Dio e volontà della nazione, re d'Italia, bla bla bla, articolo 1 è imposta a partire dal 1 gennaio 98 una tassa annuale sui velocipedi. La tassa è dovuta dai possessori a qualunque titolo di velocipedi a una o più ruote di macchine, eccetera eccetera. La tassa è di 10 lire per i velocipedi da una persona, 15 per quelli da più persone, 20 lire per macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con un motore meccanico. Questo per essere proprio precisi, visto che questa Radio 24 non è che siamo qui a dire robe, Rudy, cioè fossimo qui a dire robe, ma non mi pare che siamo proprio qui a dire robe. 349-238-6666. Niente, lo stiamo cercando, non l'abbiamo trovato. Il taglia non l'abbiamo trovato. Noi stiamo cercando, cioè, dico noi, quando c'è Margherita che praticamente è sulle tracce di chiunque debba partecipare a questo programma, li cercava da credo forse 6 mesi, mi pare. 6 mesi troppo, 2 settimane. E non farsi trovare da Margherita Inna, ragazzi, vuol dire che sei veramente dall'altra parte del mondo. Ed era il caso di Ibi Okini, che è un italo-norvegese, un ragazzo italo-norvegese che parla italiano e che è in giro per il mondo all'età di 32 anni senza soldi. Adesso non so esattamente dove sia, c'è un blog però comunque, ibiwalks.wordpress.com. Ha la faccia simpatica nella foto che c'è in questa fotocopia, ma non l'abbiamo trovato. L'altro invece che avevamo trovato si chiama Carlo Taglia, è un ragazzo di 28 anni che è in giro da ormai direi quasi 2 anni per il mondo senza prendere aeroplani. E uno dice: ma sono così comodi gli aeroplani, a proposito, no, del nonno di Gianluca. Niente, lui invece ha deciso di farselo a piedi, no, ma con mezzi che non siano aeroplani. L'abbiamo contattato, Margherita l'ha trovato con un indirizzo email, lui le ha risposto: guarda, sono adesso a Vladivostok, è in Siberia in questo momento. Insomma, ha cercato degli internet point, non l'abbiamo trovato. Però abbiamo invece trovato sul suo blog e sul suo profilo Facebook dei diari di viaggio che Carlo scrive. E ve ne voglio leggere uno che è molto particolare, perché lui si trova in una zona del mondo che non credevo manco esistesse. È su un'isola cilena che appartiene alla Patagonia cilena. Al ritorno cammino lungo la strada che attraversa il tranquillissimo villaggio di pescatori di Cucao, fiancheggiando un lago e ammirando le caratteristiche costruzioni in legno. Osservo lunghe distese di prati verdi con allevamenti di pecore. Non si vede l'ombra di un mezzo, così mi posiziono nei pressi dell'incrocio principale. E dopo un quarto d'ora vengo caricato da un allevatore che torna a casa dopo aver riempito il furgone di legna. Mi scarica a una 30 chilometri da Cucao, sul bordo di una strada sulla quale trovo un pullman che mi trasporta sulla piccola isola di Achao. Su consiglio di un cileno conosciuto a Valparaiso, inizio a camminare per le sue pacifiche e semideserte vie, incontrando un supermercato dove comprare del pane, un avocado, dei cipollotti e formaggio, per andare in spiaggia e prepararmi un bel pranzetto. Trovo riparo dal vento in un portico di legno che inizia una passerella sulla sabbia. Osservo un gruppo di cani randagi, i pescherecci che tornano in porto e alcune coppie di innamorati che passeggiano sulla riva. Proseguo la mia passeggiata incontrando 3 uomini sulla 50, in un brutto stato, completamente ubriachi. Cercano di dialogare con me e mi invitano a bere il loro vino. Rifiuto il vino, ma prendo una birra dal mio zaino così posso brindare alla loro salute. Sono troppo sbronzi. Se speravo di rimediare 2 chiacchiere, mi devo arrendere e salutarli. Raggiungo la piazza principale dove mi tengono compagnia solo altri cani randagi. Noto l'affascinante chiesa di legno e l'osservo stupito. Una signora cilena, divertita dalla mia curiosità, mi chiede se mi piace. Le rispondo di sì, sottolineando che mai ne avevo vista una così grande tutta in legno, e in quest'ultimo anno ne ho viste parecchie. Trovo un altro pullman e ritorno verso Castro, il capoluogo di regione dove mi sono sistemato in un alternativo ostello culturale e artistico. Mentre passeggio nell'ultimo isolato, incontro un signore con una bancarella sulla quale vende una pianta erbacea commestibile, tipica di questa zona, appartenente alla famiglia delle gunneracee. Si chiama nalca. L'assaggio ha un gusto leggermente amaro, come l'aceto, ma è gradevole. Vedo Marcello davanti all'ingresso, mi saluta stanco, mi propone di bere una bottiglia di buon vino rosso con lui e poi di andare alla fiera del libro ad ascoltare la presentazione di un libro di una sua amica sociologa che racconta le problematiche legate alla violenza femminile sull'isola. Verrò a sapere che l'isola di Chiloé presenta il più alto tasso di violenza sulle donne in tutto il paese, soprattutto nelle aree rurali, dove il maschilismo tipico del paese e del continente si manifesta nelle forme più aggressive. Realtà che purtroppo non mi stupisce su una cupa e remota isola patagonica. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. C'è un modo molto semplice per riascoltare tutte le puntate di questo programma che, a differenza dei programmi diciamo che abbiamo fatto negli anni passati, non ha una serialità, quindi non è che dici che cosa succede domani, ieri è successa questa cosa, quindi ci sarà uno sviluppo. No, semplicemente ogni giorno c'è una storia e ogni giorno c'è un piccolo episodio di vita che in qualche modo, anche se non sembra, appartiene un pochettino a tutti noi. Ecco, per riascoltarlo andate sul sito di Radio 24 nella sezione podcast e ci sono tutti i podcast di tutti i programmi. Se vi interessa il nostro, voi siete qui e ve li scaricate.